nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Mai che ci si possa godere una gioia dopo aver speso in lungo e largo venerdì. Spendi e spandi, spendi e spandi. E buongiorno però, Deborah, innanzitutto. Buongiorno, buon inizio settimana. Oh, anche a te altrettanto. Hai, come dire, passato il tuo fine settimana già da venerdì a spendere e spandere. Avevo iniziato un po' prima, per la verità. Va bene, ecco, già avevi cominciato prima. Aspetta che intanto agevolo l'ospite, perché adesso lo vedo là in difficoltà. Poi entra Marco, vieni pure. Sì. Chi ci segue su Facebook può vedere in diretta, segue su Facebook sulla nostra pagina, infatti, 2 di Denari Radio 24, può vedere in diretta l'arrivo del nostro ospite. Senza con red carpet, parleremo, ma se ne farà una ragione. Però non so se abbiamo un effetto applauso, qualcosa che possiamo mettere per sottolineare l'ingresso del collega Marco Biscella. E soprattutto Marco la cravatta, oserei dire. No, guarda, ti abbiamo preparato laggiù. Vabbè, per chi non sa quello che succede in questi studi, devo dire che la telecronaca può collegarsi da questa radiocronaca a vedere su Facebook direttamente. No, ah, ecco, sì, ho detto telecronaca? Telecronaca, no, è una radiocronaca. Comunque, volevo dirti, Deborah, torniamo sul nostro. Tu sei smarrita stamattina, io un lo po', so. Un po' sì, un po' sei sì. Smarrita e triste perché dopo aver goduto come le cicale, adesso è il momento invece di essere stati formiche. Guarda che metterò a segno un ultimo colpo, magari con il Cyber Monday dopo il Black Friday, quindi incurante dell'altra data che sta arrivando. Guarda, fai quello che credi, Deborah. Io ti voglio solo dire che questa invece è una grande, grande, grande settimana di tasse. Sì, quindi un mondo meraviglioso. Che brivido! Un mondo meraviglioso che andiamo a raccontare. Già ne parliamo un po' questa mattina. Ma perché dico questo? Perché il 30 di novembre scade il termine per l'acconto. È una delle N scadenze, esatto, di novembre. Quello peraltro, è il Tax Day. È un tax day, tutto novembre vorrebbe dire un tax month, perché abbiamo qualcosa come 267 scadenze. Quante? 267 complessivamente. Ma le conti di notte, no, come le pecore prima di addormentarti? No, le ha contate Giovanni Parente, che più tardi avremo in collegamento proprio da Roma per spiegarci qualcosa. Ma non solo, perché poi mercoledì con il Sole 24 Ore ci sarà una focus, una guida, insomma, dedicata all'acconto IMU e TASI. Che però non si deve versare entro il 30 novembre, bensì entro metà mese, dicembre, entro il 18. Sarebbe il 16, ma poiché il 16 cade è di venerdì, di sabato, si va al 18, che è di lunedì. Tutto questo già oggi, però, con il Sole 24 Ore trovate il nostro esperto risponde, che ha proprio il suo titolo principale. Il nostro amico Luigi Lovecchio, peraltro. Sì, dedicato a IMU e TASI, come si fa a godere dell'esenzione. Sai che i fiscalisti amano molto utilizzare questo godere dell'esenzione. Guarda, poi, insomma, pure loro i brividi che... Diciamo usufruirne, ecco, che forse è più elegante. Esatto. Tutto questo, guarda, io intanto mi preparo, però... Essendo lunedì, dobbiamo cominciare invece per capire come vanno i mercati. Esatto, adesso lo faremo con la nostra meteoborsa. Detto ciò, siccome non voglio ascoltare tutte queste tue notizie fiscali così deprimenti, quasi quasi me ne scappa a Belluno. Perché proprio a Belluno, cara Deborah? Chissà come mai, ma fra un po' ce lo racconterà Marco Biscella del Sole 24 Ore, perché secondo l'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pare che sia la città dove si viva meglio in assoluto in tutto il nostro paese. Esatto, ottimo. Allora, su tutti questi argomenti, adesso dopo la nostra partenza, come sempre, è vivace, ma così cerchiamo di rendervi lieti gli argomenti qualche volta un po' deprimenti dei quali dobbiamo parlare. Deprimenti le tasse, insomma, esistono. Se non avete capito qual è la scadenza che vi interessa, se qualche tema fiscale ancora ha bisogno di chiarimenti da parte nostra, potete interpellarci come sempre all'800 24 00 24, oppure scriverci al 349 238 6666. Riceviamo i vostri messaggi con la maniera tradizionale SMS, attraverso WhatsApp. Ci potete scrivere una mail un po' più articolata se il ragionamento che dovete fare è un po' più lungo, 2didenari@radio24.it. potete raggiungerci anche con Facebook, manca il piccione viaggiatori, segnali di fumo e che cos'altro. Potete anche aspettarci qui sotto la sede di Radio 24 del Sole 24 Ore, vi offriamo anche un caffè, basta che non siate in troppo. Esatto, intanto partiamo allora. Meteo Borsa. Allora, la meteo borsa, vediamo un po' che tempo c'è sui mercati azionari in questo inizio di settimana. Allora, c'era stata una partenza negativa nelle prime battute, poi tutto è girato in positivo, adesso vedo di nuovo un po' che la situazione diventa traballante e il quadro è contrastato. Parigi sale dello 0,19%, Francoforte meno 0,06%, Londra più 0,22%, Milano più 0,09%. Il tema da venerdì scorso in realtà è quello valutario, perché ha ripreso a correre la moneta unica europea rispetto al biglietto verde. Stamattina si viaggia a 1,19,27. Tanti temi su cui ragionare, quali saranno i settori da tenere sotto osservazione questa settimana. Peraltro ci avviciniamo sempre di più all'appuntamento di metà dicembre con la Banca Centrale Americana, che opererà un nuovo rialzo dei tassi di interesse molto atteso, molto commentato, e soprattutto si cercherà di capire quale potrebbe essere l'orientamento della politica monetaria dell'anno prossimo, perché qua c'è già qualche lite tra i membri della Federal Reserve. Chissà se ne sa qualcosa in più Marco Rosati, amministratore delegato di Zenith SGR, che salutiamo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei. Allora, commenterei subito il tema euro forte. È un freno in questo inizio settimana, secondo lei, per il mercato azionario? È così tentennante per questa ragione, o più che di euro forte dobbiamo parlare forse di dollaro che soffre un pochino per tutto il ragionamento che ho fatto prima, anche per le incertezze legate alla politica monetaria americana? Rosati. Ma direi che se la giocano abbastanza alla pari tra una forza dell'euro e una debolezza del dollaro. Questo lo si vede anche nei cambi con le altre monete, la sterlina e lo yen. Per essere abbastanza sintetici, è chiaro che si aspettano un po' di indicazioni su quello che sarà la nuova presidenza della Fed e come vorrà impostare la propria politica monetaria, anche se i mercati si attendono una sostanziale continuità con l'attuale politica. Sul fronte europeo, invece di un po' di ritrovato vigore dell'euro, credo che le trattative in atto in Germania per arrivare alla composizione di un governo abbiano favorito sul finale della scorsa settimana la ripresa dell'euro contro le altre principali monete. Pensiamo comunque che attorno a questi livelli, due centesimi avanti e indietro, sia destinato a rimanere per le prossime settimane, quindi non vediamo le borse più di tanto impattate da questi movimenti tutto sommato molto modesti. Questo per quello che riguarda naturalmente l'Europa. D'altra parte, a Wall Street continuiamo invece a registrare un record dietro l'altro, non c'è soluzione di continuità. Rosati, chiedo anche a lei, ormai questa è diventata l'interrogazione fissa di ogni inizio settimana, anche con Mauro insomma ci ragioniamo spesso nei confronti di ogni suo collega che viene così un po' a commentare l'inizio della settimana finanziaria, ma quanto durerà questo rally di Wall Street, che sembra non volersi mai fermare? Voi come la vedete? Ci dobbiamo preoccupare, comunque cominciare a mettere in atto qualche iniziativa di cautela se si ha un'esposizione magari particolarmente importante sul mercato americano? Ma allora, sapere cosa faranno le borse e il mercato, esatto, americano in particolare, evidentemente è una domanda da svariati trilioni di euro o di dollari, e non siamo certo noi ad avere la risposta. Andando a vedere i numeri, allora è chiaro che il mercato americano, dopo tutti questi anni di salita, è caro sui fondamentali, ossia sul rapporto principe, che è quello prezzo su utile delle aziende, però è anche vero che gli utili delle aziende continuano a crescere con un trend significativo e molto forte, continuano ad essere trascinati dalle grandi innovazioni tecnologiche. Quindi per il momento è un mercato abbastanza caro, ma l'economia americana sta andando molto bene. Nella tecnologia sta succedendo una vera rivoluzione, secondo me siamo quasi vicini a una rivoluzione come quando è nata Internet, e le grandi aziende americane sono leader in questo settore, quindi ci aspettiamo che in modo magari più selettivo di quello che è stato fino ad oggi negli ultimi due o tre anni, però ci continuerà ad essere un buon trend. Dottor Rosati, Vorrei tornare sul mercato domestico, le banche italiane, perché il settore bancario è sempre stato in queste settimane, ma verrebbe da dire in questi mesi, in questi anni, abbastanza sotto pressione, per usare un eufemismo. Allora, questa settimana, quindi non le chiediamo delle previsioni di lungo periodo, come si prospetta? C'è stato un recupero confortante nella fine della settimana passata e quindi forse potrebbe essere un buon segnale, un buon viatico anche per la settimana che si apre oggi. Guardi, il sistema bancario evidentemente, come italiano, forse europeo, ma italiano in particolare, come dimostrano anche le ultime vicende, ha ancora dei problemi di fondo che vanno risolti e che vanno messi a posto. E, per il breve termine è evidente che il comportamento, quello che succederà al valore dei titoli bancari quotati, è molto funzione dell'aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Genova e di quello che si preannuncerà al credito valtellinese. Quindi se queste due operazioni andranno in porto, credo che dovremo vedere un momento di recupero del settore, fermo restando che è un settore che deve smaltire ancora una dose molto importante di crediti deteriorati, di incagli, di debitori che non onorano i propri debiti, e dall'altra parte è anche un settore in piena fase di consolidamento, e lui delle tante banche che ci sono in Italia inevitabilmente alcune spariranno e dovranno integrarsi con altre, e la sfida di nuovo anche qui tecnologica, la sfida di cambiare modello di business è assolutamente rilevante. Quindi diciamo che al di là di movimenti di breve periodo, di euforia o di depressione, non pensiamo che sia il settore che possa dare delle grandi soddisfazioni nei prossimi mesi. La sento molto prudente. Esatto, quindi infatti, che non è mai cautela, troppa. Cautela, infatti. Mi sembra di poter riassumere con questa parola. L'ultima... Sì, direi più in modo forse speculativo, per chi ama speculare, ma proprio per nel lungo termine, onestamente, in questo momento ci sono settori più interessanti. Solo un minutino prima di salutarla, Rosate, a proposito di settori non in grado di dare tante soddisfazioni. Abbiamo delle aste, nuove aste questa settimana, predisposte dal Tesoro italiano. Oggi ne abbiamo una di CTZ intorno ai 2 miliardi, ne abbiamo appunto anche altre domani. Continuiamo ancora a raschiare il pavimento per quello che riguarda i rendimenti, e quindi andiamo sempre più in giù secondo lei, ma con la prospettiva di una rimodulazione del quantitative easing della Banca Centrale Europea, potranno riprendere a salire i rendimenti dei titoli di Stato italiani, oppure sulle brevi scadenze dobbiamo prevedere ancora delle discese? Ma allora qui più che raschiare il pavimento, siamo già belli sotto il pavimento sulle brevi scadenze, essendo per lo più i tassi negativi. E onestamente io non vedo un motivo al mondo, se non per degli operatori istituzionali e per motivi tecnici, di comprare dei titoli a rendimento negativo. È evidente che se non è fra 3 mesi e fra 6 o 12, la politica monetaria dell'Europa piano piano dovrà essere un po' meno espansiva e un po' meno accomodante, e quindi ragionevolmente assisteremo ad un rialzo graduale dei tassi di interesse. Grazie a Marco Rosati, amministratore delegato di Zenith SGR, buona settimana anche a lei, a presto. Buona settimana a tutti, grazie. Molto questa scelta musicale di Giulia Lauricella. Te li vedi all'Agenzia mattina? Delle Entrate che cantano tutti contenti per tutto il lavoro che hanno da fare in adesso questo io mese. Non ricordo bene il testo, però mi sembrava che qui fosse malinconico, invece mi immagino che all'Agenzia delle Entrate stiano giorni di euforia in qualche modo, perché non te lo puoi immaginare. Come abbiamo ricordato, novembre, mese da 267 scadenze fiscali. Aspetta che me lo segno, guarda che magari ci facciamo un domandone nella seconda parte. Te lo faccio dire direttamente da Giovanni Parente, che abbiamo in collegamento. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, mi ricordo correttamente, 267 ne avevi contate di scadenze fiscali del mese di novembre? Mauro, tu sei sempre puntuale nel conteggio, nella ripresa di quello che segnaliamo sul Sole 24 Ore. Sì, ovviamente... Ma dopo vi interroga anche, scusa Giovanni. Sono già trascorsi. No, Giovanni, mi senti? Non so cosa sia abbiamo successo. Abbiamo perduto il collegamento con Giovanni. No, ma questo è Peter Bescapè, che non si capisce cosa faccia lunedì mattina. Vabbè, su 267 la mia... No. Volevo chiedere se poi li interrogate, se hanno conteggiato regolarmente tutte le scadenze fiscali. Ci interroghiamo reciprocamente, ma certo, poi anche citandoci l'un l'altro i numeri delle circolari. No, non scherzo, ovviamente no. Però la cosa è importante perché, intanto che recuperiamo il collegamento con Giovanni, c'è appunto questa scadenza del 30 di novembre che è una delle scadenze chiave, perché siamo al secondo acconto con le imposte che risultano dalle dichiarazioni dei redditi. Questo significa una platea di soggetti coinvolti molto molto vasta. L'altra milioni e milioni fine di persone. Giugno. Esattamente, abbiamo giugno e novembre che sono un po' le due grandi chiamate del fisco. Per di più, come sapete, c'è sempre questo affastellarsi di normative che in qualche modo complica i calcoli. Assolutamente, anche e la vita dei commercialisti. Anche quest'anno, vero Giovanni, mi pare che abbiamo recuperato il collegamento. Sì. Buongiorno Giovanni, ci sei? Ci sono. Ah, perfetto. Dicevo, anche quest'anno non fa eccezione, cioè abbiamo delle modifiche dell'ultimo momento che complicano quindi l'acconto, questo secondo acconto che andiamo a pagare a novembre. In particolare, quali erano i punti un po' più traballanti, per dire così, o rivisti all'ultimo momento, Giovanni? Guarda, una delle modifiche che ha più creato problematiche è quella che riguarda l'aiuto alla crescita economica, cioè l'ACE, sì, che è una deduzione che è stata oggetto di un pasticciaccio di formulazioni. Prima è stata toccata la base imponibile, poi si è deciso di toccare sostanzialmente quello che è il coefficiente che consente di calcolare l'agevolazione fiscale. È un incentivo alla capitalizzazione delle imprese. Siccome ci si è accorti che molte imprese ovviamente hanno voluto sfruttarlo proprio per cercare di rafforzare il proprio patrimonio, i calcoli di gettito stavano un po' traballando, e quindi si è corsi ai ripari da un punto di vista legislativo, ma con soluzioni non sempre coerenti e che hanno fatto in qualche modo hanno chiesto ai contribuenti di doversi districare in calcoli, capire quando si applicava prima una norma e poi l'altra. E quindi questo è uno degli aspetti un po' più assolutamente problematici. Va detto anche che però, insomma, guardiamo anche dal lato positivo, insomma, delle possibilità di abbattere il conto fiscale, cioè il calcolo dovuto per fine novembre. Ci sono una serie di misure agevolative, come può essere ad esempio l'iperammortamento, però bisogna rispettare determinati paletti per quanto riguarda la messa in funzione del bene iperammortizzabile acquistato, o anche la possibilità già di sfruttare per la prima volta la riduzione dell'aliquota IRES. Questa naturalmente è una delle misure che riguardano le società. In questo caso appunto c'è la possibilità di sfruttare già il calcolo con l'aliquota al 24%, quindi con la nuova aliquota più bassa, a condizione però ovviamente di farlo bene questo calcolo, perché esistono essenzialmente due metodi per verificare quante imposte vanno pagate. Uno è lo storico, cioè considerando sempre quello che d'impresa, esatto. Quindi, uno è lo storico, certo, e l'altro è il previsionale, in cui si prevede appunto di avere ad esempio una riduzione dei propri introiti, e quindi si ricalcola complessivamente l'importo dovuto al fisco. Ecco, in questo caso si può applicare il 24%. L'unico aspetto è che bisogna fare molta attenzione ai calcoli, perché poi sono dolori in qualche modo, sì. Bisogna correggersi dopo, quindi la correzione non è mai gratuita col fisco in Italia. E a proposito di questo, guardate, scusate se vi interrompo, solo perché scrive Riccardo che ci ricorda, perché noi non l'abbiamo citata ma avevamo in animo naturalmente di farlo, non sia mai che ce ne scordiamo una, almeno di quelle più note, di scadenze fiscali. Come se non bastasse, Riccardo scrive, hanno messo anche la scadenza della rottamazione a fine mese. Sì, non solo, ma allora combaciano anche sia la definizione delle liti, sia la rottamazione delle cartelle, con la riapertura un po' complicata che Giovanni ci ha già raccontato in altre occasioni. C'è la scadenza di questa terza rata, anche utile per rientrare se ne avete saltato le prime due. Vogliamo ricordare brevissimamente, Giovanni, allora queste altre due chiamate. Aggiungerei pure l'acconto della cedolare affitti, così tanto per gradire e non farsi mancare nulla. Certo, il controllo cedolare degli affitti è sicuramente uno degli aspetti che riguarda sostanzialmente i proprietari di immobili abitativi che sono in locazione appunto col meccanismo della cedolare e quindi bisogna stare fare molta attenzione a versarli. Un ulteriore aspetto di complicazione su questo è che sugli affitti brevi se ne è stata anche la nuova ritenuta, quindi bisogna fare attenzione a se questa ritenuta è stata applicata o meno dall'intermediario e quindi poi verificare il calcolo dell'acconto anche sulla base di quello e del metodo che si sceglie di utilizzare per il pagamento. Da dire che sulla rottamazione, stavo provando a dirlo prima, è vero, il Parlamento adesso sta convertendo il decreto fiscale, c'era una scadenza al 30 novembre che era per recuperare le rate non pagate oppure pagate in maniera non sufficiente della rottamazione delle rate scadenti a luglio e il 2 ottobre. Questo termine il Parlamento lo sposta al 7 dicembre, quindi non c'è più il 30 novembre per poter recuperare le vecchie rate non saldate. Però attenzione, chi ha invece un piano di rateizzazione in corso e anche chi non ha pagato le prime due rate deve ricordarsi che deve pagare la terza al 30 novembre, perché se non paga quella comunque fuori dalla rottamazione, è un meccanismo di tagliafuori molto rigido questo, quindi non conta nulla che poi tu dopo recuperi il 7 dicembre le prime due se non hai versato la terza il 30 novembre. Quindi c'è un aspetto molto molto particolare a cui bisogna fare attenzione. È un aspetto quasi paradossale, per cui riassumendo quello che tu ci stavi spiegando, praticamente io devo pagare prima la terza rata e poi posso rientrare con le altre due dopo sette giorni sostanzialmente. Questo è detto in estrema sintesi. Beh, da una parte però non è proprio un meccanismo deprecabile, nel senso che se già tu non paghi la prima e non ti considerano già fuori, quantomeno ti danno l'opportunità di un recupero in corsa. La difficoltà che non è proprio, si rincorrono, diciamo, la versione originale del decreto legge e quella che poi uscirà, certo, invece dalla conversione. Va bene, insomma, divertitevi voi con tutto questo. Io direi, Mauro, che mi prendo il mio momento un attimo di così scappatoia di dal vostro ragionamento va fiscale. Bene, allora torno ringraziamo Giovanni Parente. No, ma ritorna con noi, lo ringraziamo per adesso. Lo ringraziamo per ora e andiamo a sentire invece come stanno andando le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri. Questa la gradisci? Questa è proprio della nostra generazione, del Mesozoico. È un po' come si dice dei miei tempi, dei miei tempi. Ma invece nei tempi nostri, la classifica da Trieste in giù, questa volta bisognerebbe aggiornarla da oggi per dire da Belluno in giù. Perché, come spiega Marco Biscella oggi sul Sole 24 Ore e adesso qui con noi a Due di Denari, è Belluno la provincia italiana dove gli indicatori, i 42 indicatori, ma in realtà sarebbero molti di più, poi chiederemo a Marco perché, i 42 indicatori del Sole 24 Ore dicono che lì si sta meglio. Certo, ricordiamo intanto che Radio 24 a questo argomento sta dedicando un Radio Day, quindi in diversi radiogiornali della giornata avete modo appunto di sentire i dettagli di questa classifica in tutte le sue sfaccettature, quindi anche noi naturalmente abbiamo voluto approfondirne le dinamiche e della sua costruzione, in particolar modo affrontando le questioni che ci interessano di più, no Mauro? Magari proprio quelle fiscali, sì, perché le questioni economiche, come se la passano dal punto di vista, ma sono così benestanti, signori Belluno? Ma i signori di Belluno, lo chiedo a Marco, sono abbastanza benestanti, anche se nelle due cosiddette macro aree, cioè sono riassunti di sette blocchi di indicatori, e non è, ad esempio, nella categoria ricchezza e consumi, non è Belluno che arriva prima, giusto Marco? No, no, in questo innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. L'abbiamo Marco, travolto, certo, di chiacchiere, povero sì, Marco. No, no, interessante. Io poi invece potrei travolgervi di numeri, perché la qualità della vita sono 4600 numeri, cioè 42 indicatori. Vediamo lettura ora, cominciamo. Io li so a memoria, per cui devo sforzarmi. No, però è vero, Belluno vince. Non è nella categoria, visto che siamo a due di denari e quindi sui soldi, vince Milano, che riconquista il primo posto, perché l'anno scorso l'aveva conquistato Aosta, quest'anno invece lo riconquista Milano. Belluno è 14ª ad esempio per il PIL pro capite, ma complessivamente è al terzo posto Belluno in questo indicatore. Ricchezza quindi consumi. È vero che i soldi non fanno la felicità, e non dovrei dirlo a due di denari, perché dove si parla di soldi, però sicuramente aiutano, e quindi Belluno è piazzata molto bene. Ma Belluno ha un altro bel primato, che è un po' il primato delle città del nord, che esce un po' a sorpresa, che è quello dell'indice di integrazione. Ah. È molto alto, ed è invece molto basso l'indice di litigiosità, perché Belluno è al secondo posto. Quindi abbiamo immaginato le province come se fossero dei condomini, no? È la prima quella dove si litiga meno in assoluto, qual è? La prima dove, aspetta, vedi, perché ricordarseli tutti è abbastanza difficile. Adesso andiamo a cercare, dai, non ti preoccupare. Quindi... Andiamo, ritorniamo sul tema PIL. No, è Belluno invece, vedi, mi sono sbagliato, è Belluno. Belluno che vince anche questo indice. Ecco, chiariamo ai nostri ascoltatori, allora, a parte che potete andare oltre che sul Sole 24 Ore, ma anche sul sito sole24ore.com, oltre a un video sempre con Marco Biscella, trovate anche una mappa interattiva che vi consente di vedere provincia per provincia, per le 6 macro aree e poi per ogni indicatore contenuto in ciascuna di queste macro aree, come si colloca la provincia che vi interessa. Potete anche fare, è una cosa molto carina, molto divertente, se volete, delle comparazioni, che ne so, Milano contro Roma, Belluno contro Palermo o Ancona, tanto per fare contro Verbania, non lo so, così Verbania. Facciamo... vuoi batterti con Verbania? Perché pare che ci siano i processi sprint, leggo sempre dalle vostre classifiche, processi. Quindi la giustizia funziona particolarmente bene, per esempio, anche questo è un indicatore di non trascurabile importanza, direi, Marco. Sì, certo, infatti è uno dei criteri in cui le province dell'arco alpino primeggiano, perché la cosa sorprendente della classifica di quest'anno è che la top 5 sono tutte province dell'arco alpino. Ah. Poi abbiamo anche Trieste, che noi abbiamo considerato provincia alpina, perché comunque geograficamente parlando lì c'è l'altopiano del Carso, che è considerato geograficamente Alpi Giulie, anche se in realtà è più le province di Udine e Gorizia. Mm-hmm. Però considerando le prime 10 province, 9 da Aosta appunto fino a Trieste, passando per Verbano, Sondrio, Trento, Bolzano, Belluno, Gorizia, Udine e Trieste, ben 9 sono dell'arco alpino. Che cosa evita l'Amplen? Milano, che è all'ottavo posto, era seconda l'anno scorso, perde 6 posizioni, ma è scesa un po', però è da considerarsi un risultato di ottimo livello, perché tra le grandi metropoli è l'unica nella top 10, sono uscite Bologna e Firenze. Ecco, io vorrei dire una cosa, Deborah, le classifiche sono bellissime perché fanno discutere, basta quella del campionato di calcio appunto. Beh, ma magari porta anche qualche cosa a queste città, no? A primeggiare in certi campi. Sì, io invito sempre a guardarla prima di tutto come una classifica del benessere, e qui Marco credo che sarà d'accordo con me, cioè non è una classifica della felicità, uno può vivere serenamente anche a Caserta, che è l'ultima classificata, e essere contentissimo e felice e non avere alcun problema. Però è più una classifica, a me piace dire, delle opportunità, cioè è indubbio che se perdo il lavoro a Belluno probabilmente avrò più possibilità, più opportunità per ritrovarlo, piuttosto che se lo perdo a Caserta. Questo è un po' il senso. Poi arrivo primo, arrivo secondo, arrivo terzo, ma io andrei più per grandi macro aree. Ad esempio, se poi andiamo a vedere, Marco, nella parte ricchezza e consumi, gli indicatori considerati vanno dal PIL pro capite, l'assegno medio mensile per la pensione, i depositi bancari, i canoni di locazione, quindi gli affitti, ma anche quanto spende una famiglia per beni durevoli. Quindi insomma anche la capacità di investire sulla famiglia, quindi su beni a utilità pluriennale. Ma anche a guardare questi indicatori ci sono dei risultati opposti anche. Milano vince nel PIL pro capite, nell'importo medio delle pensioni e nei depositi bancari. Ma se andiamo a vedere i canoni di locazione, Milano è all'ultimo posto, perché a Milano il costo delle case è molto, molto elevato, alto. Batte addirittura Venezia. Quindi è proprio, come abbiamo titolato noi, un'Italia divisa nei numeri, ed è giusta l'indicazione di Mauro, che è quella proprio di guardare la classifica della qualità della vita come una classifica innanzitutto del benessere, perché anche gli aspetti economici contano. Ogni tanto io quando penso, uno immagina che il vivere bene è sono in un bel posto, al sole, sono lì tranquillo, mi riposo, mi rilasso, tanti. Però pensiamo solo a una città come Londra, no? Che attira, e probabilmente se guardiamo dal punto di vista del meteo, Londra non è certamente una città affascinante, ma come opportunità è una città che attira. E quindi anche noi abbiamo un po' misurato i territori da questo punto di vista, quindi anche gli indicatori economici hanno la loro importanza. Trieste è la Silicon Valley d'Italia, Marco? E pensate che anche qui gli aspetti della classifica sono veramente sorprendenti, perché Trieste è all'ultimo posto come numero di imprese registrate, ma è al primo posto come start-up innovative. Quindi questo sta a significare anche un dinamismo dei territori italiani. In parte lo dice anche bene Aldo Bonomi nell'editoriale, sì, che accompagna, analizza e commenta la classifica della qualità della vita. Però è proprio vero che ci sono dei dinamismi, dei fermenti che colgono anche, diciamo così, lo spirito dei tempi. Perché quindi è vero che si registrano poche imprese a Trieste, ma tante startup innovative, e l'innovazione, esatto, è un driver di crescita. Aldo Bonomi le chiama le piccole Eldorado. Intanto, guarda, prima del tuo momento di gloria, sì, ti vedo che sei sui carboni ardenti, sì, ma adesso ti lascio andare in questo tuo momento alto di poesia, creatività del lunedì. Però volevo anche invitare i nostri ascoltatori in questi ultimi minuti di tempo che ci, certo, rimangono, a raccontarci dove vivono, se hanno avuto modo di dare un'occhiata a questa classifica e se ci si ritrova. Trovano soprattutto se siete abitanti di Belluno o delle altre città che primeggiano in qualche ambito, ritenete appunto che queste classifiche abbiano ragione oppure tutto sommato non la vedete nello stesso modo, insomma dateci la vostra esperienza sul campo all'800 24 00 24. Intanto adesso io mi raccolgo in preghiera e partiamo con la base. Sì. È giunto finalmente il giorno lieto, nel quale possiamo leggere chi vince la gara del benessere completo che mette in fila tutte le province. Gioirà la giunta tutta al gran completo se arriva prima, e allora la convince quel turbinio dei numeri che è aceto all'ultimo, che scruta come lince tutti i valor che l'hanno confinato in fondo alla classifica a restar. Anche se non c'è trucco, è matematico, disturba sempre lo suo risultato. Ma state al gioco, non c'è mica il VAR. Perciò, senza fermarci, andiamo al traffico. Due di denari. Oramai è la mia suoneria. Questa è la canzone dei Beatles. Sì, è la canzone dei Beatles, ma oramai Peter Bescapè, che ringraziamo sempre per, certo, l'assistenza in regia, ha deciso che quando affrontiamo certi argomenti lui mette Taxman dei Beatles e poi... In realtà la sua suoneria è la sigla di Due di Denari, quindi adesso fa lo splendido ma mente sapendo di mentire. Detto questo, invece, ci racconta la nuda e pura cruda verità il nostro ascoltatore, che ci racconta, a proposito delle scadenze fiscali dalle quali siamo partiti, caro Mauro, sì, che tra IRPEF e IMSS non ce la fa a far fronte ai secondi acconti, circostanza nella quale purtroppo si troveranno molti piccoli contribuenti. Allora pagherò solo una delle due. La commercialista mi ha consigliato di pagare l'INPS, e quindi i contributi previdenziali avrebbero la precedenza su quelli di altro tipo, perché l'IRPEF mi costerà meno di sanzione in caso di ritardo. È così? Lo chiediamo al nostro Giovanni Parente. Giovanni. Guarda, è evidentemente una scelta in cui, di fronte a cui non credo siano pochi si trovano, quindi probabilmente attraverso il meccanismo del ravvedimento e soprattutto magari non andando molto lontani nel tempo, nel senso che poi più vicina la scadenza e più vicino il ritardo alla scadenza meno si paga anche di sanzioni e di interessi, con ravvedimento riesci ad abbattere quello che poi devi pagare in termini sanzionatori, di penalità e di interessi. Quindi può essere una scelta quasi dovuta in questi casi. Ricordiamoci una cosa, noi stiamo parlando di un appuntamento fiscale, quello del 30 novembre, però non finisce lì, cioè il 18 dicembre è la scadenza del saldo dei mutati, certo. Il 27 dicembre c'è la scadenza degli acconti IVA, quindi è un tour de force fiscale non solo in termini di complicazioni, ma proprio mette a dura prova le casse dei contribuenti, piccole imprese, professionisti, cioè che sono, ricordiamolo, datori di lavoro anche, quindi devono pagare gli stipendi alla fine del mese, quindi non è così semplice gestirla, quindi magari con un meccanismo di ravvedimento, pagando un po' più in ritardo ma pagando qualcosina anche ridotta di sanzioni, si riesce a far fronte agli adempimenti. Sì, tra l'altro, ecco, tu hai citato il ravvedimento, hai ricordato il ravvedimento, ce ne sono di due tipi. Quindi entro i primi 30 giorni la sanzione è particolarmente contenuta, stiamo parlando appunto delle scadenze di tipo fiscale. Poi c'è anche un ravvedimento cosiddetto lungo, certo, dove però la sanzione diventa meno contenuta. Un po' più consistente. Giovanni? Sì, sì, sì, il ravvedimento sprint ti consente di abbattere in percentuali ultra ridotte, ovviamente. Sprint quanto? Nel senso, quanto ti puoi permettere di ritardare i versamenti a cui saresti obbligato? Guarda, hai la possibilità comunque di recupero entro i primi 15 giorni e comunque l'abbattimento fortemente, diciamo con percentuali che si tengono intorno allo 0,2%, quindi non è tantissimo. Ovviamente, ecco, cioè, il problema è sempre che va parametrato, ovviamente 0,2 per ogni giorno di ritardo, sia chiaro. Quindi il cumulo del ritardo che poi fa la differenza, cioè nel senso che più in là verso rispetto alla scadenza originaria e più mi trovo a pagare di sanzioni. Ecco Giovanni, uno sguardo oltre il 30 novembre, cioè al 18 di dicembre, IMU e TASI. L'altro grande appuntamento appunto con le imposte locali sugli immobili, qui forse possiamo dire, ma ti chiedo conferma perché devo ammettere che non lo so, quest'anno forse non è cambiato nulla tra giugno e l'appuntamento di dicembre. Io te lo confermo, Mauro, perché ho fatto una chiacchiera col mio commercialista qualche giorno fa, che mi ha chiesto se a lei non è cambiato nulla dal punto di vista della proprietà, se le è rimasta solo, se ha solamente l'abitazione principale. Notizie. Siamo rimasti così. Ecco, esatto. Credo che sia forse la seconda volta che succede, perché questa è una delle, queste imposte sono tra le più toccacciate, per dir così, e quindi spesso cambia la regola tra l'acconto e il saldo. Questa volta invece possiamo stare tranquilli, rifacciamo i conti. Naturalmente, come vi dicevo, mercoledì avremo in edicola uno speciale dedicato proprio ai IMU e TASI, insomma cominciamo a ragionare. Il momento per le tasse è abbastanza intenso, come stiamo spiegando questa mattina, come ci stanno confermando i vostri SMS, e quindi tra l'altro qualcuno anche ironizza sul fatto ravvedimento, sarebbe il fisco qui a doversi ravvedere, sì, il fisco ma anche un po' il legislatore, mi viene da dire, in modo così molto garbato, e quindi questa volta invece però per i IMU e TASI non cambia nulla, faremo i nostri calcoli come li abbiamo fatti già all'acconto. Giovanni, ancora un ultimo passaggio forse su questo affastellarsi invece di norme, decreto legge fiscale, manovra finanziaria. Lì cosa dobbiamo stare attenti dal punto di vista proprio delle nostre tasche, dei contribuenti? E soprattutto arriverà un po' di semplificazione in più l'anno prossimo, o non ci hanno per niente affatto pensato? Ti vedo già allora. Esoneriamo Giovanni da questa risposta, perché lo sappiamo già. No, Deborah, voglio essere positivo, va bene, dai, facciamo così. No, c'è una norma di semplificazione che è nascosta nelle pieghe della conversione del decreto fiscale. Il testo è stato approvato al Senato e ora l'esame della Camera, e non dovrebbe essere modificato, siamo sempre al condizionale, perché poi non si sa mai che succede con gli equilibri politici che ci sono. Ed è la possibilità che sia direttamente l'Agenzia delle Entrate, in casi in cui ci sono problematiche, ritardi nel software, nelle specifiche tecniche, o ci sono stati particolari problematiche, a concedere la proroga di un adempimento. Questo diventa particolarmente importante anche alla luce del caos che abbiamo vissuto tra settembre e ottobre sullo spesometro, in cui ci siamo addirittura trovati, pensate il paradosso del fisco italiano, una proroga che era quella alla scadenza del 16 ottobre pubblicata in Gazzetta Ufficiale ben 21 giorni dopo la scadenza, quindi insomma è anche un sinonimo di mancanza di rispetto del contribuente. In questi casi sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate, quindi saltando tutta la procedura del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che poi deve essere registrata alla Corte dei Conti, andare in Gazzetta Ufficiale, bla bla bla bla, e quindi insomma questa norma di semplificazione c'è. Per quanto riguarda le tasche, mi viene da dire, insomma, che aspettiamo un po' fiduciosi la legge di bilancio. Nel decreto fiscale c'è il ravvedimento, cioè scusate, c'è la rottamazione che riapre con quei tre tipi di calendari, sì, che abbiamo raccontato varie volte, qualche normina su qualche agevolazione molto specifica e poco altro. Forse la legge di bilancio qualcosina in più potrebbe darla. Si è discusso molto di web tax questo weekend, ma adesso si entrerà nel vivo anche dell'approvazione degli altri emendamenti. Grazie Giovanni. Ci prendiamo sugli ultimi 20 secondi perché molti messaggi sono arrivati a proposito delle città e la classifica della qualità della vita. Molti ascoltatori continuano ancora a domandarsi con un po' di preoccupazione: ma perché c'è ancora questo divario così netto fra nord e sud, una forbice così ampia? E poi tanti commenti rispetto alle città in cui si abita: Verona come si piazza, Roma come si piazza. Roma se la passa bene. Roma è 24esima, è scivolata un po' indietro, però anche Milano, quindi. E c'è chi invece segnala, per esempio, che ci sono amici di queste